Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È incredibile che paghiamo con i soldi delle nostre tasse fondi pubblici a giornali che fanno titoli vergognosi del genere. Poi, quando io in questi giorni ho chiesto di chiedere scusa al Movimento 5 Stelle, mi hanno pure criticato. Ma questi sono titoli che non meritano neanche un euro degli italiani. Avete sentito il duro commento di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente della Camera, su questo titolo che ha fatto molto discutere oggi del quotidiano Libero, dell'articolo di Feltri, patata bollente, con sotto la foto di Virginia Raggi, della sindaca di Roma. Insomma, è scoppiata una bufera, si parla di sessismo, perché effettivamente, diciamo, non è un titolo così lusinghiero e sufficientemente allusivo. Poi sentiremo che cosa ha detto Feltri poco fa qui a Radio 24 alla Zanzara e commenteremo nel bilancio della politica della settimana, come sempre, perché essendo l'ultima settimana, l'ultima puntata della settimana questa di Effetto Notte, come sempre il venerdì, lo sapete, c'è tra le altre cose il bilancio della politica della settimana, quindi parleremo anche delle agitazioni interne al PD, delle motivazioni depositate dalla Consulta per la parziale bocciatura dell'Italicum. E poi ci occuperemo anche di hackeraggio, perché oltre al fatto dei sospetti che ci sarebbero sulle presidenziali americane da parte della Russia, un possibile hackeraggio, pirateria informatica, pare che ci sia stata anche nei confronti del Ministero degli Esteri italiano della Farnesina. Come è stato possibile? Ce ne occuperemo, così anche come di Sanremo. Lo sapete che queste sere ci colleghiamo a questo spettacolo che comunque, insomma, anche nel suo essere pop, nel suo essere leggero, comunque fa i suoi begli ascolti, quindi al suo interesse. Poi il meteo, per capire se almeno qui a nord piove, c'è brutto tempo, da altre parti meglio, capiremo che fine settimana ci aspetta. Intanto però cercherò di farvi capire che giornata è stata nel suo complesso con il riassunto tra poco. Vi ricordo sempre che per intervenire, per interagire qui con Effetto Notte, c'è la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. E ora, prima di approfondire gli argomenti, il riassunto della giornata. Russia, il Guardian rivela, sospetti di un attacco hacker contro la Farnesina, Mosca replica, campagna senza fondamento, indaga la procura. Intanto il Financial Times definisce morbido e pragmatico l'approccio dell'Italia verso Trump. Raggi, il titolo sessista, bufera sul Libero che titola patata bollente, solidarietà bipartisan alla sindaca. Nel frattempo l'assessore Berdini è ancora in bilico, la sindaca dice riserva non sciolta. Partito Democratico, pressing renziano sulla manovrina, no a più tasse sulla benzina. Padoan invitato alla direzione di lunedì, intanto Pisapia in campo punta al 40%. Immigrazione, il governo vara nuove norme, procedure più veloci per l'asilo, rimpatri più facili, un centro per ogni regione. Francia ha sventato un attacco a Parigi, un attentato, blitz antiterrorismo a Montpellier con 4 arresti. Il giorno del ricordo oggi, il presidente Mattarella dice le foibe sono espressione degli orrori del Novecento. Bologna, nuovi scontri tra polizia e studenti, la protesta contro i tornelli alla biblioteca di lettere. Sanremo, quarta serata al festival con i 20 big rimasti in gara, tra gli ospiti Virginia Raffaele. Partiamo quindi da questi sospetti di pirateria informatica, cibernetica, come vogliamo dire, della Russia nei confronti della Farnesina. Lo rivela il Guardian, giornale britannico, dice che la Farnesina è stata vittima di un attacco hacker, si sospetta da parte della Russia, l'anno scorso per 4 mesi, quando Paolo Gentiloni era ministro degli esteri. Il ministero conferma, ma spiega che il fatto era già noto e che in seguito a questo era stata rafforzata la sorveglianza. Gentiloni in ogni caso non è stato vittima, anche perché, secondo fonti del governo, evitava di usare le mail quando era ministro degli esteri. La procura di Roma intanto però ha aperto un'indagine, Mosca nega tutto, dice non ci sono fatti che provano questa affermazione. Poi ne parleremo anche di quanto possa essere facile penetrare centri nevralgici di istituzioni così importanti, ma anche come è stato per esempio per le presidenziali americane. Fra l'altro un altro giornale britannico, il Financial Times, definisce morbido e pragmatico l'approccio dell'Italia verso Trump. In una corrispondenza da Roma firmata da James Politi, il giornalista attribuisce al Presidente del Consiglio e al suo governo una politica più conciliante verso la Casa Bianca del dopo Obama rispetto ad altri partner europei, per ragioni che secondo questo giornalista si ricollegano alla personalità diplomatica di Gentiloni, ma pure alla tradizione di politica estera di un paese vulnerabile, scrive, che evita lo scontro con le potenze maggiori e soprattutto alla scommessa di un'auspicata distensione con la Russia. Quindi praticamente ci dà un po' degli opportunisti. La Corte d'Appello federale di San Francisco, parlando sempre di Stati Uniti, ha negato all'unanimità il ripristino del bando del presidente Trump contro l'ingresso negli Stati Uniti di rifugiati e cittadini provenienti dai 7 paesi islamici di questo bando. E intanto la numero uno della diplomazia europea, Mogherini, avverte il presidente americano Trump, dice: Washington non interferisca nella politica europea. L'alto rappresentante UE per la politica estera Federica Mogherini ha messo in guardia l'amministrazione Trump contro qualsiasi interferenza nella politica dell'Unione Europea dopo le critiche del presidente USA alla gestione dei flussi migratori e il plauso fatto dal tycoon alla Brexit con l'auspicio che altri paesi seguano l'esempio della Gran Bretagna. Noi non interferiamo nella politica degli Stati Uniti e gli europei contano sul fatto che l'America non interferisca nella politica europea, ha dichiarato il capo della diplomazia UE che si trova in visita a Washington. Rassicurata delle intenzioni americane di rimanere fedeli alla piena attuazione degli accordi sul nucleare iraniano, Mogherini in conferenza stampa ha spiegato di essere in visita negli Stati Uniti per proseguire e rafforzare la cooperazione tra USA e UE, anche se ciascuno ha i propri valori e principi, come sull'immigrazione, ha sottolineato l'alto rappresentante. Intanto si apprende che la Casa Bianca sarebbe aperta ad un nuovo decreto sull'immigrazione, lo afferma la CNN che cita fonti vicine a Trump, secondo le quali sul nuovo possibile decreto nulla è escluso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora Roma, dove questa volta però, come sentivate all'inizio, a fare notizia un titolo di Libero sulla sindaca Raggi. Giornalismo spazzatura, un volgare attacco sessista e un coro di critiche e di reazioni indignate, quello scatenato dal titolo di Libero sulla sindaca Raggi. Patata bollente, due parole pubblicate in prima pagina dal quotidiano a corredo di un articolo di Vittorio Feltri sulle vicende della prima cittadina pentastellata di Roma. Alla Raggi va la solidarietà di tutte le forze politiche, innanzitutto quella del Movimento 5 Stelle che con Grillo e Di Maio torna ad attaccare la stampa. Uno schifo, commenta il Partito Democratico. Contro Libero intervengono anche i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, e l'Ordine dei giornalisti. Nessun commento invece dalla sindaca Raggi, la quale però fa sapere di non aver ancora sciolto la riserva su Paolo Berdini. Il suo assessore all'urbanistica ha finito anche lui al centro di una bufera per averla definita inadeguata e circondata da una banda. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la reazione, il commento invece della sindaca Raggi è arrivato pochi istanti fa dalla pagina Facebook. Scrive che queste offese offendono donne e uomini, che è stufa e che chiederà sicuramente un risarcimento. Poi torneremo su questa polemica nel bilancio della politica della settimana, come vi dicevo, così come torneremo sulle agitazioni interne al Partito Democratico con la pressione di parlamentari renziani per non aumentare quella fiscale di pressione e nella manovrina correttiva, no? Quella chiesta da Bruxelles. Poi ci sarà la direzione di lunedì del PD, dove Renzi forse farà un blitz, dirà che si dimette da segretario del partito e chiederà elezioni, quando? Per il 2018 o prima? Insomma, poi parleremo anche di questo. Invece adesso trattiamo il tema dell'immigrazione, perché il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato nuove norme, richieste di asilo da gestire più velocemente, rimpatri più facili, sono questi tra gli obiettivi dei decreti. Rimpatri più veloci e pratiche per la richiesta d'asilo più rapide ed ancora maggiori poteri ai sindaci per la sicurezza urbana. Il governo approva due provvedimenti messi a punto, il primo in particolare con le regioni, il secondo con i comuni. Sull'immigrazione spiega il presidente del Consiglio Gentiloni: l'obiettivo strategico non è chiudere le nostre porte, ma trasformare sempre più i flussi migratori da fenomeno irregolare a fenomeno regolare. Noi ci teniamo molto stretti i nostri valori, che sono i valori umanitari, i valori dell'accoglienza, dell'integrazione. Siamo orgogliosi, andiamo verso un nuovo modello di accoglienza, dice il ministro dell'Interno Minniti. Abbiamo proposto di aprire dei centri piccoli, di piccole dimensioni, numero complessivo 1600 persone ospitate su tutto il territorio nazionale, uno per ogni regione. Nuovi poteri quindi ai sindaci nel controllo delle città, dall'accattonaggio alla prostituzione, dallo spaccio alla movida molesta, con uno strumento in più a disposizione, quello del DASPO, già utilizzato nel calcio per i tifosi violenti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di Francia adesso, che è di nuovo sotto la minaccia terroristica. Oggi sono state arrestate 4 persone nel sud del paese. Secondo il governo erano pronte a realizzare un attentato a Parigi. Li hanno fermati prima che realizzassero i loro progetti stragisti. Obiettivo, ancora una volta, Parigi, e l'organizzazione era già in fase avanzata. Un attentato imminente, a detta del ministro dell'Interno, è stato sventato col blitz di Montpellier. Arrestati 3 uomini e una 16enne che solo 2 giorni prima aveva registrato un video col suo giuramento di fedeltà al califfato. Ultimi preparativi prima delle nozze col meno giovane degli aspiranti jihadisti, di 33 anni, pronto a farsi saltare in aria. È il loro appartamento laboratorio di Clapier a confermare quanto fossero vicini all'azione. Avevano comprato anche dell'acetone, utile insieme ad altre sostanze a preparare un esplosivo artigianale ma ad alto potenziale, come quello usato negli attacchi di Bruxelles. Siamo di fronte ad una minaccia estremamente elevata, servono tutte le misure, ammette il premier Bernard Cazeneuve. Parole pronunciate nello stesso giorno in cui il Consiglio Costituzionale boccia, in nome della libertà d'espressione, una norma che condanna l'uso abituale dei siti jihadisti. Siti che consultava anche Anis Amri, l'attentatore di Berlino, che nel 2015 aveva vissuto vicino a Roma, a casa di un'italiana sposata con un tunisino. All'improvviso pregava 5 volte al giorno, ma, racconta ora Jessica alla Bild, diceva che il Corano non c'entra con l'ISIS. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E le autorità, a proposito di Francia, le autorità americane sostengono di aver ucciso Rachid Kassim, l'ex rapper nemico pubblico numero uno della Francia, che attraverso la sua propaganda su chat e social network cercava di arruolare giovani e giovanissimi nei piani di morte della Jihad, dell'ISIS. Questo è quanto riferiscono fonti francesi. Kassim sarebbe stato ucciso da un drone americano a Mosul. E oggi in Italia, il giorno del ricordo, dopo 60 anni di silenzi grazie alla legge del 2004, si è riusciti a dare voce al dramma dell'esodo dei cittadini Giuliano Dalmata, rimasto invisibile per più di mezzo secolo. In questa ricorrenza si fa memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo degli italiani che dovettero lasciare le loro case, le loro cose, un territorio stuprato prima dai nazisti, poi dai comunisti di Tito, oggi al centro di un percorso per una memoria finalmente condivisa di quei fatti. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato: l'Europa della pace, della democrazia, della libertà, del rispetto, rispetto delle identità culturali è stata la grande risposta agli orrori del Novecento, dei quali le foibe sono state una drammatica espressione. E la Presidente della Camera Boldrini, durante la cerimonia che c'è stata oggi a Montecitorio, ha ricordato gli italiani uccisi dalle autorità comuniste jugoslave, l'esodo degli italiani strappati dalle loro case, il vostro dolore, ha detto, è il nostro dolore. Invece adesso ci spostiamo a Bologna, ci sono stati nuovi scontri nella zona universitaria, un corteo di studenti ha superato Piazza Verdi con l'intenzione di entrare all'interno di una delle sedi della Facoltà di Lettere. Ancora tafferugli e cariche nel corso della nuova manifestazione dei collettivi contro i tornelli alla biblioteca della Facoltà di Lettere a Bologna. C'è stato un lancio di oggetti, poi il cordone in assetto antisommossa caricato davanti al rettorato. Fino a quel momento il corteo aveva sfilato pacificamente per le vie del centro storico. All'origine della protesta l'installazione di alcuni tornelli in biblioteca, ma il prorettore dell'Ateneo Mirko Degli Esposti nel corso di Effetto Giorno ha precisato che in realtà non si tratta di tornelli ma di una porta di vetro con un lettore badge, spiegando poi così la decisione. Noi abbiamo fatto questo all'interno di un'operazione per aprire 4 sale letture in zona universitaria con più di 1000 posti ed estendere l'apertura fino alle 24. Sale letture aperte a tutti, senza nessuna restrizione di accessi, a studenti, studentesse, cittadini. Gli studenti chiedono garanzie di ingresso per tutti, anche per chi non frequenta più i corsi universitari, come spiega uno dei rappresentanti della protesta, Angelo. Fin dal primo giorno che hanno installato i tornelli, in tanti e tanti che erano arrivati lì, che non sono più iscritti all'università e dovevano consultare dei libri, hanno avuto grosse difficoltà ad entrare e sono riusciti ad entrare solo a partire dalle proteste a bodaggio dei tornelli che è stato messo in campo. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo ancora sulla cronaca. Sono stati condannati in un tribunale a Pavia 2 ex manager della ditta Fibronit, azienda in cui si realizzavano prodotti in amianto a Broni, in provincia di Pavia. Sono Michele Cardinali, di 74 anni, ex amministratore delegato dell'azienda, è stato condannato a 4 anni. L'ex direttore di stabilimento Lorenzo Mo, di 70 anni, a 3 anni e 4 mesi. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La condanna per il reato di omicidio colposo sono state sentenziate in relazione alla morte di 27 fra dipendenti della fabbrica e residenti deceduti per patologie legate all'amianto. E poi questo allarme sulle balene in corsa contro una corsa contro il tempo c'è in Nuova Zelanda nel tentativo di salvare centinaia di balene che si sono arenate nelle scorse ore nella spiaggia di Farewell Spit nell'isola meridionale. Oltre 400 gli esemplari spiaggiati, tre quarti dei quali, pensate, purtroppo già morti all'arrivo dei primi soccorsi. L'incidente, uno dei peggiori nella storia del paese, è avvenuto in un tratto di costa nella regione della Golden Bay, nel nord dell'isola meridionale, che in passato è già stato teatro di episodi simili. I media locali riferiscono di centinaia di volontari ambientalisti che si sono lanciati in questa disperata operazione di salvataggio fin dalle prime ore del mattino. E per chiudere Sanremo, siamo alla quarta serata del festival, vedo un balletto di danzatori super acrobatici mentre scorrono i titoli di testa, sta iniziando adesso, arrivano per mano i due conduttori, Carlo Conti e Maria De Filippi, con applausi, sentiamo se commentano qualcosa. È davvero molto chic, complimenti, guarda chi c'è. I miei compagni di classe. Ma veramente? Eh? Sì. Stanno facendo commenti davvero, su alcuni, quelle persone del pubblico. Esattamente come quando ero giovane. Oh, oh Giorgio, buonasera. Alba, buonasera. Ciao. Vogliamo salutare? Sì, lui buonasera. Fu il mio direttore di Giorgio rete. Giorgio Gori, vari personaggi. Insomma, no, prime file, d'accordo, ci collegheremo quando ci sarà un po' di musica. Stasera, tra l'altro, c'è Virginia Raffaele che sicuramente strapperà parecchi sorrisi. Mentre intanto strappo qualche vostro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, poco prima della viabilità. Dice, per esempio, Adriana... Anzi, Lucio e consorte, scrivono, che si chiama Adriana. La consorte, sinceramente, a me patata bollente non mi sembra un titolo sessista e manco offensivo. Forse sono sessista senza saperlo, ma non credo. Consiglio alla signora Raggi di lasciar perdere e concentrarsi su Roma Capitale. Così sto vedendo anche altri messaggi, ne parleremo tra pochissimo. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E tra poco cominceremo ad approfondire alcune notizie, in particolare, poi sapete, venerdì, l'ultimo giorno della settimana per Effetto Notte, quindi bilancio della politica della settimana. Intanto i vostri messaggi continuano alla pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio, e il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. C'è anche in ballo Sanremo, vediamo un po' di sentire se i due conduttori dicono qualcosa, diciamo, di pregnante. Il regista dei record, lo scorso anno, proprio da questo palcoscenico, ho avuto l'onore di in qualche modo di dare il via. Stanno facendo un po' di pubblicità a qualcuno, insomma, qualche regista, qualche fiction, eccetera. Niente musica ancora, mentre sentiamo la musica dei vostri messaggi. Per esempio, cosa scrive Gianni da Bologna? La Raggi deve smetterla di fare la vittima è patetica. Invece un altro ascoltatore dice: Feltri è comunque più stimabile delle patacche di Radio 24. Grazie, senz'altro meno ipocrita. E poi invece un altro ascoltatore dice: di Feltri ricordo solo quello che disse alla Zanzara rispetto alla sua ammirazione per Hitler. Patate alle patate, vino al vino. E poi, mentre Luigi ci dà dei puritani, dice che cosa c'è da indignarsi per l'espressione patata bollente. Mentre Sergio, tassista da Milano, scrive: Feltri usa una bella lingua, linguaggio, lingua parte umana, dice a parte il doppio senso, Roberta, non ci crede nessuno che si riferiva alla patata bollente per la Raggi, veramente patetica la sua difesa alla Zanzara. Tra poco sentiremo che cosa ha detto. Intanto però, prima di andare su questo argomento e di fare il bilancio della politica della settimana, vi ricorderei, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti del giorno. Farnesina hackerata dai russi quando Gentiloni era ministro, la notizia la dà il Guardian, Mosca smentisce, intanto però indaga la procura di Roma. E poi pressing renziano sulla manovrina, quella richiesta dall'Unione Europea, dicono questi parlamentari renziani no a più tasse sulla benzina. Padoan intanto è stato invitato alla direzione del PD che si terrà lunedì, si va verso un'accelerazione anche del congresso. E poi via libera oggi dal Consiglio dei Ministri del decreto sui migranti, saranno più facili le richieste d'asilo, i rimpatri, un possibile DASPO territoriale anche per chi viola le regole di sicurezza. E poi la vicenda Raggi e il titolo patata bollente, bufera su questo titolo di Libero. Nel frattempo la vicenda dell'assessore Berdini, come procede? L'assessore ancora in bilico, la sindaca dice che la riserva non è sciolta. Trump perde ancora con un tribunale sul bando ai cittadini musulmani provenienti da 7 paesi, perché la Corte d'Appello federale di San Francisco ha negato il ripristino del bando del presidente. Blitz in Francia oggi, sventato un attacco terroristico, probabilmente c'erano dei kamikaze già pronti per questo attacco. E poi ancora scontri a Bologna, tensione in zona dell'università, corteo, cariche, tafferugli e 3 fermi. E poi Sanremo, Carlo Conti dice: da Sanremo andrò allo Zecchino. A Mediaset, qualcuno gli ha chiesto se andrà a Mediaset, lui dice: Fanta TV. Vogliamo sentire De Filippi se dice qualcosa adesso? Ogni tanto parla. Scusa, protagonista, ormai da 67 anni c'è questa sera, c'è stata e sempre ci sarà. Parla di Sanremo, perché dell'evento, 67 anni, è la 67esima edizione. Allora, direi che adesso potremmo invece sentire non Carlo Conti e Maria De Filippi, ma Virginia Raggi. In realtà mi sono sentita molto colpita come cittadino. Quando ho letto quelle notizie ho pensato che ci sono dei giornalisti che non fanno il loro lavoro e che probabilmente offendono anche gli altri giornalisti che invece lo fanno con coscienza. Siamo di nuovo davanti all'ennesimo attacco sessista. Probabilmente una parte dell'Italia è molto, molto maschilista, però vi voglio svelare un segreto. Anche i sindaci possono essere donne. Sull'Italia maschilista non ci piove, non c'è dubbio, poi cercheremo di capire insomma se è una questione di libertà, di diritto di cronaca o di stampa, oppure effettivamente se, visto che la sindaca Raggi, come dice lei, vi svelo un segreto, anche una donna può fare il sindaco, la sindaca, questo è vero, no? Che spesso viene presa di mira, al di là di tutti i sommovimenti, i tira e molla, i dai e vieni, le dimissioni, chi torna, chi va, chi è indagato, eccetera, comunque sicuramente è sotto i riflettori in modo particolare, anche perché è donna. Ma adesso vi dicevo il bilancio della politica della settimana. Questo naturalmente è delle ultime ore, ma è il fatto che ha sopravanzato tutti gli altri fatti della politica della settimana. Però abbiamo anche le motivazioni della consulta a proposito dell'italicum, della parziale bocciatura che ha fatto la Corte Costituzionale dell'Italicum, in particolare sul ballottaggio, e poi il PD che intanto si avvicina, si appropinqua, lunedì prossimo ci sarà la direzione, poi probabilmente si accelera anche sul congresso. Renzi è piuttosto teso, forse farà un blitz, che dirà, che si dimette, che vuole il voto quando, insomma. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Allora, vogliamo partire dalle turbolenze della Giunta Raggi, ma prima di tutto sopravanzate, dicevo, da questo titolo di oggi, di Libero, diretto da Feltri, Vittorio Feltri, che appunto abbiamo detto si titola Patata bollente, sotto c'è la foto della Raggi. E che cosa fa in questo articolo Feltri? Praticamente collega le vicende comunali e personali di Virginia Raggi all'epopea Berlusconi Rubi Olgettine, no? Invocando la legge del trapasso, dicendo adesso tocca a lei essere un po', avere questo ruolo di tubero incandescente. Le reazioni quali sono state? Allora, abbiamo sentito poco fa la Raggi, che anche poi su Facebook ha detto che chiederà senz'altro un risarcimento. Grillo ha detto: massima solidarietà alla nostra Virginia. Di Maio, l'avete sentito all'inizio, ha detto che è stato superato ogni limite. La Presidente della Camera Boldrini, che tra l'altro è spesso anche lei oggetto di attacchi maschilisti, ha detto: questo è giornalismo spazzatura. Grasso, Presidente del Senato, Feltri chieda scusa. La Ministra Boschi ha detto: diritto della cronaca qui non c'entra per niente. E il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Jacopino, ha detto: è una vicenda disgustosa. Vogliamo sentire Feltri poco fa come si è difeso qui a Radio 24 La Zanzara? È un modo di dire, sì, che riguarda le grane. Quando tu hai una grana, sì, è una patata bollente. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Se poi qualcuno vuole anche attribuirgli un altro significato, cioè allusivo, padronissimo di farlo, ma riguarda chi legge e non chi scrive. Patata bollente, in ogni caso, ti vorrei ricordare, caro Parenzo e sì, cari ascoltatori, sì, che è un titolo che io feci il 15 gennaio sì, del 2011 e riguardava Rubi Rubacuori. Ebbene, sì, lo stesso titolo non suscitò la minima polemica. Anzi, perché anzi, si parlava di Berlusconi e dei suoi diletti di tipo sessuale. E allora nessuno disse niente. Allora, io direi, Barbara, poi ci dici cosa pensi tu, che è vero che utilizzò nel 2011 patata bollente, però forse per Berlusconi si riferiva a quello che era stato definito dal suo difensore Ghedini l'utilizzatore finale, mentre forse in questo caso purtroppo Raggi risulta utilizzata, ecco, diciamo così, no? Che sì, ne pensi? Diciamo che che quando le vicende personali diventano di pubblico dominio non è mai, come dire, non è mai non solo gradevole, ma forse neanche accettabile. Tra l'altro lì, scusa Barbara, lì era capo del governo italiano, in più si parlava, secondo le cronache, di queste pulmini di ragazze che entravano lì a Palazzo Grazioli, insomma, quindi in questo caso è, no, mi diciamo pare che sia diverso, le attribuiscono degli amanti, ma queste sono pettegolezzi. No, sinceramente non è tanto il fatto se siano, se la sindaca sia, quale sia l'amante della sindaca, direi che cioè le due vicende secondo me non sono comparabili. Infatti. Non sono comparabili, ma comunque è sgradevole il titolo in sé, perché è vero quello che dice Feltri, cioè che lui aveva fatto lo stesso titolo. Ma nel caso in cui la protagonista del titolo è una donna, quel titolo è chiaramente... È allusivo, inutile che questa furberia di Feltri che dice no, chi vuole, gli altri alludono, ma io no. Dopodiché cioè se io devo fare un'affinità tra il caso Ruby e il caso Odierno, è da un punto di vista... Cioè nel caso Ruby, ricordiamoci che il problema non era tanto con chi si fosse intrattenuto Berlusconi, ma il fatto che Ruby fosse o non fosse minorenne all'epoca dei fatti. E nel caso della Raggi il punto non è se il suo segretario Romeo fosse o meno l'amante, ma il fatto che questo signore è stato promosso e ha avuto la triplicazione dello stipendio per volere del sindaco, quindi... Come dire, anche in questo senso le due vicende mi sembrano abbastanza diverse, però insomma le ragioni poi per cui l'eventuale questione privata, in questo caso appunto il rapporto tra la sindaca e Romeo, ha un peso anche da un punto di vista diciamo della processuale, dell'indagine in corso, è sul fatto che se c'è un rapporto personale tra due persone, l'eventuale, come dire, favore che si fa a una persona, quel rapporto personale diventa importante per comprendere perché è avvenuto e quindi per eventuale abuso di ufficio da parte di chi lo ha commesso. Ecco, cioè, credo che il motivo poi, cioè, se tutte le cose fossero riportate nel loro alveo, cioè si evitasse, come dire, questa prugineria, mi viene da dire, rispetto alle vicende private, forse stare più meglio sui fatti concreti. Senti, intanto leggo velocemente qualche messaggio, molti degli ascoltatrici e ascoltatori. Simone dice: cattivissimo gusto, specchio del livello raggiunto dal dibattito politico in Italia, latitano un po' le reazioni delle donne, giornaliste, femministe comprese, non tu Roberto. Francesco: a me sembra eccessivo trasformare un titolo di Libero in un caso nazionale, anche perché detesto i cori indignati, dice del colmo che si scandalizzi perfino Grillo, uno abituato a mandare a fan mezzo mondo. Poi Andrea: fossero tutti questi problemi, Silvio è stato massacrato per anni, doppio pesismo del politically correct italiano. Dice poi Elena: utilizzare argomenti riferiti alla sessualità rigorosamente nei confronti delle donne come argomento contro è una caratteristica dei peggiori coglioni, dice, che siano giornalisti o altro, e via molti altri messaggi. Senti, invece sulla vicenda Berdini, la sindaca ha detto oggi, ha ripetuto che ieri parlava insomma di una squadra che lo affiancherà, quindi si parla di una specie di commissariamento, anche se certo non è stato usato questo termine. Oggi ai giornalisti che le chiedevano: ma ancora fiducia in Berdini, l'assessore all'urbanistica, ricordo a chi non lo sapesse, che in questi giorni aveva detto in un'intervista un po' rubata alla stampa delle cose pesanti sulla Raggi, la sua Corte dei Miracoli, il fatto che fosse amante di Romeo. Lei oggi ha detto non ho ancora sciolto la riserva, no? Sì, ha detto questo, ma soprattutto Berdini non si è presentato alla riunione di giunta dove è stata approvata una delibera che riguardava proprio il suo assessorato. Insomma, la situazione mi sembra, lui stesso ha detto in una chiacchierata, ha detto insomma se mi vogliono fare fuori lo facessero. Insomma, è difficile restare anche per lui, no? Immagino. Beh sì, decisamente, perché per quanto poi, ecco, in questo senso anche qui il discorso sull'intervista rubata, qui invece io lancio una lancia, scusatemi il gioco di parole, in favore della categoria, nel senso che quando una persona è un esponente pubblico, che sia del mondo politico piuttosto che dello spettacolo, non è che può parlare dire qualsiasi cosa come, pensando come che poi un cittadino qualunque, chiaro, ed è evidente cose anche che pesanti. Se uno si permette di parlare in un certo modo del proprio sindaco con una persona peraltro che non è un suo amico, perché lui stesso ha detto che quella persona, questo giornalista, gli era stato presentato in quel momento. Quindi se si permette di dare dei giudizi così pesanti nei confronti del proprio sindaco a una persona che ha conosciuto da pochi minuti, se ne deve prendere, insomma, responsabilità. Se ne deve prendere le responsabilità. Barbara, abbiamo ancora due minuti, dedichiamo al PD, lunedì c'è la direzione, c'è molta agitazione mi pare tra questi 40-37 renziani che hanno chiesto a Gentiloni di non aumentare le tasse, perché sennò il PD se la vedrebbe male, insomma, alle prossime elezioni. Gentiloni irritato da questa invasione di campo, poi Renzi che ha forse in mente un blitz di mettersi da segretario, in questo modo prendendo in contropiede la minoranza PD. Un tuo commento molto flash. Ma semplicemente che ovviamente Renzi non continua a tenere la sua bandiera del no alle tasse, che su cui ha costruito anche, come dire, la sua immagine nella scalata del PD e poi come premier. Poi quanto questa sia stata produttiva, cioè questo suo slogan, questo è tutto da vedere, anzi dei risultati che ha avuto per ora non mi sembra che sia stato vittorioso. Per quanto riguarda poi blitz o altro, cioè questa situazione nel PD è destinata ad avere un momento di chiarimento molto importante, appunto come dicevi, lunedì alla direzione. Quello che Renzi dice è che a questo punto, visto che le elezioni si allontanano, perché a questo punto è chiaro a tutti che non si voterà a giugno, beh, se questo è così, allora il chiarimento nel PD deve avvenire subito con il congresso, come peraltro inizialmente la minoranza chiedeva, adesso anche loro vorrebbero posticiparlo, probabilmente perché si vorrebbero preparare per cucinare a fuoco lento Renzi. Ma insomma, questa cosa sta diventando veramente noiosa e non credo che gli ascoltatori siano molto interessati, allora, da queste vicende. Direi, Barbara, che ci aggiorniamo lunedì, vediamo un po' che cosa fuoriesce da questa direzione PD. Grazie Barbara Fiammeri, buon grazie fine settimana. Ciao Barbara. Direi che dobbiamo correre subito verso la pausa per ricominciare tra pochissimo con altri argomenti. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi, 349-238-6666, numero per WhatsApp, SMS. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Proseguiamo, abbiamo lungamente parlato di politica nel bilancio della politica della settimana, come sempre il venerdì qui Effetto Notte, in particolare di questa ultima polemica sul titolo di Libero riferito a Virginia Raggi, che tra l'altro su Facebook ha detto che chiederà senz'altro un risarcimento. Poi abbiamo parlato del PD, adesso invece cambiamo temi. Intanto i vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. A proposito appunto del titolo di Libero, c'è Alessio che dice: Libero, il giornale proprietà di Angelucci, parlamentare del PDL di Berlusconi, con forti interessi nella sanità, nel mercato immobiliare, fa tutta la sua analisi sui retroscena. Andrea: fossero tutti qui i problemi? Ah no, questo l'abbiamo letto prima. Invece è Marta che dice: a non parlarne sembra di non opporsi a un atto vergognoso, a parlarne infastidisce il dare visibilità a una testata che alimenta quanto più di disumano possa nascere in contesti di disagio. E non Doriano: è il perpetuarsi del maschilismo, dice Doriano, donne ritenute oggetti sessuali, donne oggetto, questa è la cultura strisciante che genera violenza alle donne, violenze sessuali fino ai femminicidi. E poi Luca dice: mi fa sorridere la cosa che tutte le infamità, le falsità, le offese sui giornali TV sono tollerate, sul sessismo tutti solidali, compresi i giornalisti. Beh, già un tema che almeno su questo cerchiamo di essere solidali, e poi naturalmente anche sul resto. Allora direi che prima di passare al prossimo ospite, al prossimo tema, vi ricordo i titoli principali. Russia, il Gardner rivela sospetti di un attacco hacker contro la Farnesina, Mosca replica, campagna senza fondamento, però indaga la procura, tra poco ne parliamo. Raggi e il titolo sessista, bufera su Libero che titola patata bollente, solidarietà bipartisan alla sindaca, nel frattempo l'assessore Berdini ancora in bilico, la sindaca dice riserva non sciolta. Partito Democratico, pressing renziano sulla manovrina, no a più tasse sulla benzina, fa anche rima. Padoan invitato alla direzione di lunedì, Pisapia intanto in campo punta al 40%. Immigrazione, il governo vara nuove norme, procedure più veloci per l'asilo, rimpatri più facili, un centro per ogni regione. Francia ha sventato un attentato a Parigi, blitz antiterrorismo a Montpellier con 4 arresti. Il giorno del ricordo, oggi il presidente Mattarella dice le foibe sono espressione degli orrori del Novecento. Sanremo quarta serata al festival con i 20 big rimasti in gara, tra gli ospiti Virginia Raffaele. Vogliamo sentire Giusto Albano, due secondi? Nei miei pensieri, con la figlia molto commossa e triste che lo guarda dal pubblico. Che mai più tramonterà. Di Rose e Spine, volevo allietare Enrico Pagliarini. Caro Enrico, buonasera. Buonasera, non vedevo l'ora di sentire Albano, ecco, francamente. Ecco, io ti ho accontentato, sì, sì. Sono una che cerca di accontentare quanto può. Enrico Pagliarini, che voi conoscete benissimo, 2024, tra poco alle 22 ci sarà, con la sua trasmissione 2024, la tecnologia portata di mano, appena finisce Effetto Notte c'è lui, però intanto parlaci di spionaggio cibernetico con questa nuova accusa nei confronti della Russia di aver piratato praticamente il sito della Farnesina, del Ministero degli Esteri italiano, quando Gentiloni era titolare di quel ministero, anche se, questo l'ha rivelato il giornale inglese Guardian, e dice però Gentiloni non è stato vittima perché lui non usava le mail quando faceva il ministro degli esteri. Tra l'altro sappiamo che Mosca nega tutto, però anche nelle presidenziali americane si è parlato moltissimo, no, dell'influenza russo. Allora, prima di tutto direi non è una buona soluzione non usare le email, cioè un po' come dire non uso la macchina perché ho paura di fare l'incidente, quindi questo non copiate quello che faceva Gentiloni, poi come lui cercasse di proteggere le sue comunicazioni sono affari suoi, però diciamo che questa non è una buona giustificazione. Allora, innanzitutto diciamo che sono tutte indiscrezioni di fonti non ben identificate, la Farnesina ha di fatto confermato, però c'è anche da dire che non stupisce, gli attacchi informatici ce ne sono tutti i giorni verso ministeri, pubblica amministrazione, aziende, quindi da questo punto di vista non c'è da stupirsi. Bisognerebbe capire però, la Farnesina da questo punto di vista ha spiegato, con pochi dettagli, ma comunque ha spiegato, non sono stati rubati o comunque attaccati dati sensibili, quindi dovrebbe essere successo nulla di particolare. Poi sulla Russia, allora è vero che la Russia come Stato, come servizi segreti, come hacker che in qualche modo sono collegati allo Stato è molto attiva, ci sono tantissimi indizi che dicono che la Russia è attiva su questo fronte, però anche negli Stati Uniti non sono ancora e non sono mai state trovate prove, la famosa pistola fumante, non ci sono prove schiaccianti, quindi direi che la smentita di fonti dello Stato russo, del governo russo, sono da credere, perché finché non trovi prove non puoi accusare uno Stato di spionaggio, anche se sappiamo che i più grandi Stati, i più grandi servizi segreti del mondo fanno questa attività di routine, quindi non ci sarebbe da stupirsi se poi un giorno scopriamo che uno Stato è stato attaccato da un altro Stato. Certo, se questa cosa poi diventasse ufficiale, chiaramente avrebbe un impatto anche sulle relazioni diplomatiche, quindi per il momento siamo in attesa. Non vorrei essere nei panni della Procura di Roma, perché un'indagine del genere, anche se poi viene fatta con specialisti, con consulenti, sicuramente molto bravi, molto abili, ma è molto molto complicata. Fortuna che non sei della Procura di Roma, ma fai 2024 tra poco alle 22. Grazie Enrico Pagliarini. Grazie, tra poco. Ciao Enrico. L'ha definito nonno coraggio, ma lui questa etichetta non piace molto. Ma chi sarebbe nonno coraggio, Marta Cagnola? Albano è nonno coraggio? No. Ah, lei sta per tirare dentro un'altra storia, lei è la professionista delle storie, Maria De Filippi. Sì, praticamente Gaetano Moscato con Filippo, suo nipote. Gaetano Moscato è il nonno eroe di Nizza che ha perso una gamba per salvare il nipote appunto in quei giorni brutti, bruttissimi, quella sera della strage di Nizza. Il camion, il 14 luglio dell'anno scorso. Esatto, sì. È uno di quei momenti che sono così molto toccanti, ma insomma che servono a riportare un po' di realtà. Siccome lo diceva, mentre lo diceva vedevo solo Albano, ho pensato questo. Senti, siamo alla quarta serata, Marta, la nostra inviata lì a Sanremo. Quarta serata, ieri non è stata male, mi spiace che abbiano mandato LP, la cantante italo-americana, grande rivelazione, tra i primi posti nel mondo, no? Le sue canzoni nelle classifiche, dopo l'una, quindi proprio c'è voluta molta resistenza. Sì, purtroppo molto tardi, sì, però devo dire che a onor del vero ha avuto un picco d'ascolto, i pochi che c'erano che hanno sintonizzati sulla tipo guardavano solo lei. Senti Marta, invece questa sera ci sono i 20 big rimasti in gara, no? Che cantano, abbiamo visto prima Albano, Allora, quanti ne rimangono poi? Esatto, meccanismo complicato. Erano 22, 11 la prima sera, 11 la seconda sera. Ogni sera 3 a rischio eliminazione. Ieri i 6 a rischio eliminazione, 4 sono rimasti, 2 sono usciti. Però adesso sono stati ributtati nella mischia, quindi sono 20, ma ripartono tutti da zero. Quindi virtualmente qualcuno che ha rischio eliminazione la prima sera, non so, facciamo un esempio, Ron, che ha appena cantato, che ha cantato per primo, vale esattamente come tutti gli altri. Semplicemente non hanno cantato la cover, questo è l'unico handicap, non hanno cantato la cover. Che ieri era la serata delle cover, infatti. No? Esatto, e quindi 4 escono definitivamente, perché domani alla finale arrivano in 16. Senti Marta, invece per quanto riguarda i super ospiti di stasera, tra l'altro la cosa che mi sembra più complesso del sistema elettorale italiano, ecco, questa cosa di chi entra, chi esce, chi finisce. Complicatissimo, ma io ci metto un sacco a impararlo. Ad esempio, questa sera come si decide il voto? 40% televoto, 30% giuria demoscopica, 30% giuria di qualità. Giuria di qualità, tra l'altro, verrà celebrato il presidente di quest'anno, no? C'è un omaggio a lui stasera. Non vedo l'ora, Giorgio Moroder, quindi contiamo di ballare tutti moltissimo, perché lui è il re della disco. Ma in giuria c'è anche Small Wonder, la grandissima e piccolissima, però allo stesso tempo Rita Pavone, che domani prenderà il premio alla carriera. Finalmente si sono inventati un premio alla carriera a Sanremo. Marta, invece, tra gli ospiti attesi, Virginia Raffaele, no, per far ridere un po', è sempre bravissima. Straordinaria, beh, lei è straordinaria, io proprio la amo, di amore sconfinato. Credo sia la vera vincitrice dell'anno scorso. Sì. In realtà non era mai confermata, si sapeva, ma nessuna conferma. La conferma è arrivata proprio oggi stesso. E quindi, la vedremo tra un po', per chi potrà. Sì. Altri ospiti, super ospiti, dicevo, di ieri, ma invece di stasera, chi atteso? C'è Robin Schulz. E anche qui quindi si ballerà moltissimo, appunto c'è l'omaggio a Giorgio Moroder e poi dovrebbe arrivare sul palco Antonella Clerici. Vuoi dirci, tu a te piaceva moltissimo la canzone di Fiorella Mannoia, mi pare che ti piacesse anche l'Odid, adesso chi diresti dopo che li hai sentiti tutti, qual è la tua canzone preferita? Si può dire, allora, no? No, ma al di là insomma, delle canzoni preferite o non preferite, insomma, ci stiamo chiedendo chi potrebbe salire sul podio, insomma. Per ora i favoriti sono sempre Fiorella Mannoia e Elodie, che lo erano dall'inizio. È molto salito nelle quotazioni Herbal Meta. Dopo la cover che ha fatto ieri di Modugno, bellissima. Perché c'è sempre un effetto cover. Cioè, quando la cover va molto bene, ha un influsso anche sulla gara. Quindi le quotazioni di Herbal Meta salgono e sono sempre molto alte anche le quotazioni di Francesco Gabbani. Perché, come vi avevo preannunciato, la performance è talmente divertente, ricca, divertente, diversa dalle altre, che spicca. E lui fa questo balletto con uno scimmione, un finto balletto scimmione. Balletto con la scimmia e quindi si è inventato qualcosa, ecco. Poi per il resto le canzoni che amo molto, sono contenta perché ieri sia Paola Turci che Marco Masini, che secondo me hanno due pezzi formidabili, sono comunque sul podio delle cover, ecco. Marta, domani serata finalissima, giusto? Ultimo atto? Finalissima, sì, si chiude la Saracinesca. Noi giornalisti finiamo domenica perché poi c'è la conferenza di bilancio e quindi per i giornalisti finisce un giorno dopo, però domani sera, insomma, tardi come al solito, sapremo chi ha vinto il 67esimo Festival di Sanremo. Gran finale. Grazie Marta Cagnola, buon festival a te allora. Ci rivediamo a Milano, ciao. Ciao, ciao Marta. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme, Roberto Giordano con voi, quindi lasciamo per qualche momento Sanremo. Vedo questo messaggio di Giuseppe, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice: d'accordo che il titolo nei confronti della Raggi sia offensivo, inaccettabile nei confronti di qualunque persona. Poi i grillini che si indignano non si possono vedere, non si ricordano il trattamento alla presidente Boldrini e l'epiteto vecchia puttana dato da Grillo alla professoressa senatrice a vita Nobel Montalcini, tanto per citarli. Successe nel 2010, Grillo disse così della Montalcini in uno spettacolo, nel suo spettacolo, poi fu condannato a una sanzione pecuniaria, certo, però ovviamente non è un buon motivo poi per ributtare un epiteto su un'altra persona che non è Grillo, se proprio se la prendessero allora con Grillo rispetto a quella parolaccia che disse allora. Direi adesso tra pochissimo di dare spazio all'Europa, ma intanto vi ricordo velocemente che i titoli principali sono: Russia, il Guardian rivela sospetti di un attacco hacker contro la Farnesina, Mosca replica una campagna senza fondamento, la Procura di Roma indaga, Raggi il titolo sessista, Bufera su Libero che titola patata bollente. Solidarietà bipartisan alla sindaca. Nel frattempo l'assessore Berdini è ancora in bilico. La sindaca dice riserva non sciolta. Partito Democratico, pressi Renziano sulla manovrina, no a più tasse sulla benzina. Padoan viene invitato alla direzione del partito di lunedì. Pisapia in campo con la sua nuova creatura, punta insieme al PD al 40%. E poi Francia, sventato un attentato a Parigi, blitz antiterrorismo a Montpellier con 4 arresti. Oggi, il giorno del ricordo, il presidente Mattarella dice le foibe sono espressione degli orrori del Novecento. Europa 24 notte. Parliamo di Erasmus, che compie 30 anni, il programma di mobilità giovanile europea che è stato ampliato nel 2014, continua ad avere un grande successo, il record di scambi nel 2015 con quasi 700.000 partecipanti. Sentiamo il servizio di Laura Bettini. Oltre 9 milioni di europei hanno preso parte in 30 anni al progetto Erasmus, certamente uno dei più noti e di successo dell'Unione Europea. Il record l'ha segnato l'edizione 2015 con 678.000 iscritti, merito anche dell'ampliamento della formula. Dal 2014 infatti Erasmus è diventato Erasmus Plus. Silvia Costa, coordinatrice della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Sotto la dizione Erasmus Plus o Plus convivono vari progetti, vari programmi. C'è quello prevalente che riguarda il 75% delle risorse, delle borse per l'alta formazione, quindi studenti universitari, ma anche delle accademie e dei conservatori. Poi ci sono una quota interessante di volontari europei. C'è dentro anche tutto il tema della scuola e anche la formazione professionale. Abbiamo difeso fortissimamente Erasmus Mundus, cioè la possibilità di fare esperienze anche nei paesi terzi. C'è la parte azione gioventù e poi solo dal 2014 c'è anche la voce Erasmus Sport. Simone Acquaviva è invece presidente di Erasmus Students Network Italia. Una delle prime cose che si nota è la possibilità di ripetere l'esperienza Erasmus, che prima col programma precedente non era possibile. Molti studenti che partono per passare un periodo magari di 6 mesi, un anno durante per esempio la laurea triennale, poi vogliono subito ripartire durante la laurea magistrale. Dagli 11 paesi partecipanti del 1987 siamo oggi a 33. Tutti i 28 stati membri, più la Turchia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. La classifica dei giovani che si muovono di più vede in testa i francesi, quasi 40.000, tallonati dai tedeschi. Seguono spagnoli, italiani e polacchi. E sul totale il 60% sono ragazze. Le mete preferite sono un po' sempre le solite. Spagna, Germania e Gran Bretagna in testa, seguite da Francia e Italia. La Gran Bretagna ha sostenuto Erasmus fin dalla prima edizione. È un paese che ha più ospitato che mandato i suoi studenti all'estero, perché l'accesso gratuito alle costose università del Regno ha sempre fatto gola a molti. Ma con la Brexit che succederà? L'europarlamentare Silvia Costa. Rispetto al tema Brexit, che è una delle cose su cui non è un caso che i ragazzi della Gran Bretagna europei sono più preoccupati, ce l'hanno dimostrato, hanno mandato una petizione di 10.000 ragazzi, noi abbiamo detto che Erasmus potrà continuare naturalmente su una base diversa, solo se però la signora May accetterà che comunque l'Inghilterra rimarrà nell'area del libero scambio e dove sono garantite le quattro libertà fondamentali, fra cui la circolazione delle persone. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora finalmente è tempo di sapere che tempo farà questo fine settimana. Lo chiediamo al nostro portatore sano di sole, Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caro Paolo, guarda, sono alla terza bronchite da ottobre, quindi dimmi che arriva il caldo, per favore. Ma sì, dai, tutto sommato buona notizia. Intanto buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, per questo fine settimana prevediamo un netto miglioramento del tempo. Oggi tra l'altro abbiamo avuto condizioni praticamente invernali ancora al nord, con delle nevicate che hanno interessato fino a quote basse, soprattutto il Piemonte, sì, la Lombardia. Però appunto da domani questa perturbazione se ne va, e se ne va anche la perturbazione che ha interessato nelle ultime 48 ore il centro-sud. Quindi in tutta Italia netto miglioramento, al centro-sud proprio torna il sole già domani, il nord dovrà fare i conti ancora con qualche residuo annuvolamento, ma ripeto, senza precipitazioni, e domenica anche al nord un po' di sole lo vedremo. Ma forse la cosa più importante è che settimana prossima arriva una zona di alta pressione, noi l'abbiamo battezzato l'anticiclone di San Valentino, ci piaceva, garantirà tempo bello in tutta Italia e anche un rialzo delle temperature. Quindi guarda, settimana prossima avremo davvero un assaggio di primavera, il che non vuol dire che l'inverno sia finito, però insomma già potremo respirare aria più mite in tutta Italia. Quindi non duraturo, però già qualcosa di meglio ci possiamo aspettare. Brava, se te la devo dire tutta, secondo me grandi andate di freddo non ne arriveranno più, quindi in qualche modo stiamo fuori, dai. Non ti faccio l'applauso, sarebbe cacofonico, è abbastanza rumoroso. Grazie al nostro Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao, buon tempo a tutti. Ciao Paolo, e direi sì che a questo punto quindi ci possiamo lasciare serenamente, poi ci riaggiorniamo come sempre molto brevemente alle 22.